24, la storia. 1982. Israele invade il Libano, l'Unione Sovietica impantanata in Afghanistan. E la guerra tra Iran e Iraq sembra non dover finire mai. E in un anno già così tragico che una vecchia disputa territoriale dal sapore decisamente coloniale si riaccende di colpo e finisce per tenere il mondo con il fiato sospeso. L'oggetto della contesa è uno sparuto gruppo di isole nell'Atlantico del Sud, ai confini dell'Antartide. Per il suo possesso decidono di farsi la guerra inglesi e argentini. I primi le chiamano isole Falkland. I secondi si ostinano a chiamarle Malvinas. Il 3 aprile dell'82, con un discorso alla folla della Plaza de Mayo, a Buenos Aires, il generale Galtieri, capo della giunta militare al potere in Argentina, rivendica la sovranità sulle isole Malvinas. Dal 1833 le isole sono un dominio britannico. Quello stesso giorno i primi soldati argentini sbarcano sulle isole, ma il primo ministro inglese Margaret Thatcher non ci sta e invia marina e aviazione. Quella che raccontiamo oggi a Mix 24 è la storia di una guerra del XX secolo, una guerra di soli 72 giorni che vede 13.000 soldati argentini male armati, stremati dal freddo, dal fango, dalla neve, bombardati senza tregua dagli aerei e dalle navi inglesi. E infine sconfitti, e le Malvinas tornano a chiamarsi Falkland. Ma oggi vogliamo raccontarvi quella guerra attraverso i ricordi degli sconfitti, dei reduci, allora ragazzi di 18 anni mandati al macello dalla giunta militare. Eppure ancora oggi gli argentini non hanno dubbi, un giorno quelle isole torneranno a chiamarsi Malvinas. Una strana guerra durata appena 72 giorni. Due nazioni alleate degli Stati Uniti si confrontano nell'ultima guerra moderna combattuta con baionette sommergibili nucleari, ma soprattutto con un'arma antica, quella del nazionalismo. L'Argentina, che ha perso la guerra e ha pagato il prezzo più alto, non si dimentica delle Malvinas. Così scrive un soldato argentino. Porto Argentino. 3 di giugno del 1982. Cari papà e mamma, sono circa le 2 di pomeriggio e vi scrivo un po' in fretta. Non vi preoccupate per me, non mi manca nulla e ho molta voglia di tornare a casa. È possibile che manchi poco. Dopo questa esperienza vedremo tutti la vita in maniera molto diversa. Per finire, papà e mamma adorati, spero che queste righe vi giungano dopo il mio ritorno. Tanti baci da vostro figlio, che non vede l'ora di abbracciarvi nuovamente. Ancora oggi, per tutti gli argentini, il problema della sovranità non è risolto. Una battaglia è stata persa, ma la guerra in fondo non è ancora finita. Ce ne parlano i reduci Gino Martinez, Alejandro Romero e Sergio Delgado. Come uno sogno, no? Mi sembra di aver vissuto un sogno. Tutto ti rimane nella mente, tutto quello che ho subito, tutto quello che ho sofferto. Però grazie a Dio, col tempo, con un po' di tranquillità e con l'aiuto dei medici, tutto lentamente sta passando. Qualcuno mi chiede ancora di raccontare com'era andata alle Malvinas, ma io non voglio ricordare. Mi fa tristezza la fame che ho passato, il freddo. Eravamo figli della disciplina, figli della dittatura. Venivamo da 7 anni di dittatura e lo stesso esercito che aveva represso il popolo argentino ha represso anche noi soldati. Perché durante la guerra siamo stati puniti, gli ufficiali non sono stati i nostri compagni. Sì, senza dubbio eravamo figli della dittatura. Assolutamente. Questo è l'elicottero che trasporta la residenza presidenziale di Elmessidora sulle Ande, Isabelita Perón, deposta da un colpo di stato militare. Promotori del golpe, i comandanti delle tre armi. Il nuovo governo è guidato dal capo di stato maggiore dell'esercito, generale Jorge Videla. È fervente cattolico e anticomunista. Se dovesse elaborare un programma di governo, ha detto un colonnello, si ispirerebbe a una lettera pastorale. Avete sentito il TG2 del 27 marzo del 1976. Dopo il Cile e il Brasile, anche in Argentina le forze armate prendono il controllo dello Stato. I militari si attribuiscono compiti di polizia interna applicando la cosiddetta dottrina di sicurezza nazionale, una dottrina politicamente e finanziariamente appoggiata dagli Stati Uniti. I movimenti guerriglieri di sinistra vengono così violentemente repressi. Gli Stati Uniti non possono permettere che un'altra Cuba nasca in Sud America. Ce ne parla il giornalista Oscar Raul Cardoso. L'esercito e la marina hanno il grosso della responsabilità nell'applicazione della politica del terrorismo di Stato e della scomparsa di migliaia di persone. Ovviamente invocavano la necessità di salvare la nazione. Avevano il potere, lo esercitavano in modo quasi illimitato, però non riuscivano a trovare qualcosa che li giustificasse di fronte alla storia. Mix 24, la storia. Rieccoci su Mix 24. Quella che stiamo raccontando oggi è una storia di guerra e nazionalismo, quella per la rivendicazione argentina delle isole Malvinas. Giustificarsi di fronte alla storia e trovare una legittimità politica per un governo militare, la soluzione è una sola: la guerra. L'occasione arriva nel 1978, la scusa una disputa territoriale con il Cile nello stretto di Magellano. Così Augusto Pinochet, dittatore cileno, da amico e complice dei militari argentini, si trasforma in un odiato nemico e le due nazioni si trovano sull'orlo di una guerra. Con un calcolo sbagliato, la giunta militare si aspetta almeno 20.000 morti nei primi due giorni di combattimento. Il 22 dicembre del 1978 la crisi raggiunge il suo apice, ma il Vaticano si offre come mediatore e tutto si ricompone. Si raggiunge l'accordo, i soldati argentini che ritornano da questa guerra mancata sono accolti come vincitori, ma per la giunta militare questa pace è in fondo una sconfitta. Jorge Videla, poi Roberto Viola, i capi della giunta cambiano seguendo le logiche degli intrighi di palazzo all'interno delle tre forze armate. Dicembre 1981, arriva Leopoldo Fortunato Galtieri, un generale dell'esercito che a Washington descriveranno come una figura maestosa. Con lui la dittatura avrà finalmente la sua guerra. Queste le sue parole. L'insistenza nel danneggiare l'immagine della società nazionale utilizzando la difesa dei diritti umani può solo avere come origine una complicità esterna alla nazione e soprattutto irresponsabilità morale. La carriera politica di Galtieri non inizia con la guerra delle Malvinas. È stato responsabile della seconda regione più importante per la repressione in Argentina, Rosario. Ce ne parla lo storico Felipe Pigna. Era stato assegnato a missioni in Centro America, nell'addestramento della guerriglia Contras contro il governo nicaragüense, sandinista, e nell'addestramento della forza militare honduregna e salvadoregna contro la guerriglia. È stato istruttore di tortura in quelle regioni e questo ha fatto credere a Galtieri che avrebbe avuto l'appoggio degli Stati Uniti per la sua avventura bellica nelle Malvinas. Gli Stati Uniti appoggiano la dittatura. In cambio, la CIA utilizza gli ufficiali argentini nella lotta al comunismo in Centro America. Galtieri e la sua giunta sanno che le Malvinas non hanno una grande importanza geopolitica, che non hanno risorse naturali importanti e che per gli inglesi hanno poco peso strategico. Insomma, per una riconquista delle isole sembrerebbe un'operazione sicura, senza il rischio di scatenare una crisi internazionale. Le isole Falkland Malvinas sono inglesi dal 1833. La neonata Argentina, da pochi anni indipendente dalla Spagna, le perde dopo una breve guerra con un'Inghilterra in piena espansione coloniale. Per gli argentini le isole diventano così un simbolo dell'indipendenza nazionale, qualcosa di imprescindibile. L'Argentina non sarà mai una nazione completa senza le Malvinas. E nelle scuole di tutto il paese da 150 anni si insegna la storia delle isole, si canta la marcia delle Malvinas, si insegna che sono argentine di diritto, come confermano le parole di questa studentessa. L'arcipelago delle Malvinas si trova sulla piattaforma continentale argentina, a 500 chilometri dalla costa della Patagonia. L'Argentina ha legittimo diritto sulle isole perché stanno dentro la piattaforma continentale. Le ha ricevute in eredità dalla Spagna, furono prese con la forza. Dalla fine della guerra una data impressa nella memoria di tutti gli argentini, tanto da diventare un giorno di festa nazionale. Il 2 aprile, il giorno dei veterani o della riconquista delle Malvinas, truppe argentine sbarcano nelle isole con l'obiettivo di recuperare la sovranità su questo territorio coloniale inglese. Il 2 aprile 1982, alle ore 5:40, inizia l'Operazione Rosario. Come ci aspettavamo, le forze di invasione argentine stanno prendendo il controllo della radio. Sto tentando di passare il messaggio del governatore. Signore, un minuto! Se lei toglie la pistola dalla mia schiena, io trasmetterò per voi. Solo se lei toglie la pistola. Population of the Falkland Islands. Popolazione delle Falkland, la radio è adesso sotto il controllo delle forze di invasione argentine. In questo momento mi stanno obbligando a trasmettere una cassetta, non so quale sia il suo contenuto. A partire dal dia della fece. Da oggi, 2 aprile 1982, inizia le sue trasmissioni Radio Isole Malvinas. Adesso ascolteremo l'inno nazionale argentino. Così recita il comunicato dei militari argentini. I 40 marines inglesi si sono arresi dopo una breve battaglia. L'unica vittima dell'invasione è un soldato argentino. I 2000 abitanti dell'isola, discendenti dei coloni scozzesi dell'Ottocento, guardano sconcertati le truppe argentine che sfilano per l'unico centro abitato dell'isola, Port Stanley, subito ribattezzato Porto Argentino. Oggi, 2 di aprile, abbiamo recuperato le Malvinas in tutta la loro zona di influenza e già sventola la bandiera argentina nelle nostre isole. Galtieri si credeva un nuovo Perón, un uomo che pensava di formare un movimento politico che fosse l'eredità della dittatura. Non abbiamo fatto altro che interpretare il sentimento del popolo argentino. Accetteremo il dialogo dopo questa azione di forza, però nella convinzione che la dignità e l'orgoglio nazionale devono essere mantenuti a tutti i costi e a qualsiasi prezzo. Così recitano i comunicati degli invasori argentini. Galtieri, come un nuovo Perón, pensa di formare un movimento politico che sia l'eredità della dittatura. Ce ne parla il giornalista Oscar Raul Cardoso. Se si analizzano i documenti dell'epoca prodotti dal Ministero degli Interni del governo di Galtieri, diventa chiaro che quello che cercavano era un colpo di mano, che è quello che è stato poi Malvinas. Un colpo di mano che gli permettesse di giustificarsi di fronte alla storia. L'idea era: risolviamo la crisi con un negoziato e rimaniamo alle Malvinas. Trattiamo con l'Inghilterra e poi andiamo verso un processo di apertura politica controllata, con un partito che nei documenti ufficiali del governo militare aveva un nome generico, MON, Movimento di Opinione Nazionale. Era l'idea di una forza politica che ereditasse il regime per via civile. Bene, questo era lo schema, uno schema che ha poco a che vedere con la sovranità e con il territorio irredento e ha tutto a che vedere con il desiderio di perpetuarsi nel potere. Questa folla osannante, spontaneamente raccoltasi nella Plaza de Mayo, racconta quanto è forte il sentimento popolare sulla sovranità delle isole. Tanto forte da dimenticare la crisi economica, i salari crollati, l'inflazione al 200% e soprattutto dimenticare la grande manifestazione di protesta di due giorni prima, il 30 marzo. Ce ne parla lo storico Felipe Peligna. Non Non necessariamente la stessa gente che è andata a protestare il 30 marzo è andata il 2 aprile a festeggiare. Io sono stato il 30 di marzo e sono stato picchiato e non sono andato il 2 aprile a gridare Viva Galtieri. I giornali dichiarano che la sovranità non si negozia e l'Argentina non cederà a nessuna pressione. Queste le dichiarazioni di alcuni cittadini. Penso che sia una gran cosa. Finalmente l'esercito ha fatto il suo dovere. Quasi non ci credo. Li abbiamo recuperati dopo... quanti anni? Più di un secolo. Sono molto felice e orgogliosa. Questa mattina mi sono così emozionata quando ho saputo che abbiamo ripreso le Malvinas. E l'Inghilterra? Il primo ministro Margaret Thatcher gioca anche lei la carta del nazionalismo. Il paese è in crisi, gli scioperi dei minatori non sembrano fermarsi e anche l'Inghilterra si riscopre unita sotto la bandiera delle Falkland Malvinas. La flotta inglese parte per le isole, salutata da un bagno di folla. È già deciso, sarà guerra. Le Nazioni Unite, con la risoluzione 502, chiedono all'Argentina di ritirarsi dalle isole. Comincia così il balletto della diplomazia. E Haig, il segretario di Stato americano, vola tra Londra, Washington e Buenos Aires alla ricerca di una soluzione pacifica. Ascoltiamo il colonnello di Stato Maggiore, Carlos Doglioli. Penso che il più grande problema che hanno dovuto affrontare gli Stati Uniti, l'Inghilterra e gli altri membri della NATO era che non potevano permettere a una potenza di terzo ordine, come la Repubblica Argentina, di imporsi a una delle nazioni più importanti della NATO. Di conseguenza tutti i paesi europei sono stati fedeli al trattato e hanno incondizionatamente appoggiato il loro alleato inglese. La NATO e l'Europa non potevano permettere che l'Argentina facesse come voleva. Non erano soltanto gli Stati Uniti. I generali argentini hanno fatto male i conti. Il loro appoggio alla guerra contro il comunismo in Sud America non vale per gli Stati Uniti quanto il fedele e potente alleato inglese. Ronald Reagan, nella notte del 2 aprile, telefonò due volte a Galtieri, tentando di fermare l'invasione, ma non ottenne nulla. Avete sentito il giornalista Oscar Raul Cardoso. Di conseguenza il presidente Reagan e gli Stati Uniti alla fine abbandonano il loro piccolo alleato. L'Argentina è sola contro tutti. Gli altri paesi sudamericani non vanno oltre le parole e i proclami propagandistici. Anche Castro si schiera contro l'Inghilterra, ma alla fine i giovani conscritti argentini saranno gli unici ad affrontare il leone inglese, come testimonia il reduce Sergio Delgado. Ero a casa mia e guardavo la televisione con la mia famiglia. In quel momento stava parlando il generale Galtieri. Era il 2 di aprile. Suona il campanello ed era un mio compagno con una camionetta militare insieme ad altri amici che erano stati congedati con me. Mi rincorporavano al reggimento. Oggi a Mix 24 stiamo raccontando la storia di un contenzioso internazionale, quello per le isole Falkland Malvinas tra Regno Unito e Argentina. Mix 24, la storia. Rieccoci a Mix 24. Quella che stiamo raccontando oggi è la storia di una guerra sporca, quella per le Malvinas. Si mobilita l'esercito argentino, 10.000 uomini alle armi, gridano i giornali, ma sono ragazzi di 18 anni, poco addestrati, che avevano vissuto la loro adolescenza sotto la dittatura militare. Ce ne parla il reduce Sergio Delgado. Avevo 18 anni e non ero molto preoccupato di quello che poteva accadere. Non ero cosciente di ciò che stavamo per affrontare. E in verità non avevo idea di come erano le Malvinas. Non immaginavo niente. Sapevo solo che erano due isole, ma più di questo non sapevo. 13.000 soldati arrivano nell'isola. È una corsa contro il tempo. La flotta inglese sta per arrivare. I reparti più preparati però rimangono sul confine cileno. Pinochet, che dà il suo appoggio alla Gran Bretagna, potrebbe attaccare approfittando della situazione. A raccontarcelo il reduce Sergio Delgado. Era così lontano che abbiamo dovuto camminare per 8-10 ore. Ci siamo fermati, abbiamo dormito e il giorno dopo abbiamo ricominciato, fino ad arrivare nel luogo dove sono rimasto per tutta la guerra. Avevamo le nostre piccole cose. Generalmente nelle postazioni c'erano cose religiose, rosari, foto di familiari. Le poche lettere che arrivavano le appendevamo lì. La guerra non era stata prevista. Si era preventivata una guarnigione molto piccola, circa di 500 uomini, e di conseguenza la logistica era stata pensata per quella forza. Se pensavano di fare una guerra con 13.000 uomini nelle Malvinas, quanti ci sono stati alla fine, avrebbero dovuto mandare un generale di divisione con 3 o 4 generali. Io invece ero solo un generale di brigata. Quando le forze argentine sono salite a 13.000, la logistica è ovviamente aumentata, ma improvvisando. Infatti, quando la guerra è iniziata, non c'erano rifornimenti per tutti, e solo per 30 giorni. Avete sentito il comandante delle forze argentine alle Malvinas, Mario Benjamin Menendez. La flotta inglese, la più potente mai radunata dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, circonda le Malvinas. I soldati argentini sono soli in un'isola priva di strade dove ormai è inverno. Il freddo è polare, la pioggia trasforma il terreno in un'enorme palude e si cominciano a razionare i viveri. Ce ne parla ancora Sergio Delgado. Dopo 15 giorni il cibo incominciò a mancare e tra i soldati si sparse la voce che a Porto Argentino c'erano i magazzini pieni. E così abbiamo cominciato a scappare. Il problema era che scappare era un reato per l'esercito. Ti metteva nei guai e le punizioni erano terribili. Il 1° maggio 1982, a un mese dall'inizio della crisi, i primi aerei inglesi attaccano le postazioni argentine ed è guerra, quella vera. Ascoltiamo l'ufficiale dell'aviazione argentina, Héctor Gutiérrez. Il 1° maggio è stato il nostro battesimo del fuoco, noi dell'esercito argentino. Non eravamo mai entrati in combattimento. Da quel momento in poi ho capito quello che voleva dire entrare in combattimento in una forma diretta, reale, che avevo visto solo nei film. E credevo che fosse un film. Poi ho capito che quella era la realtà. Erano reali la tristezza, le bombe, i rumori, i miei sottufficiali, i compagni, tutti carbonizzati e tutto senza poter reagire. E uno avesse sin poter reaccionare. Poi di colpo ho preso coscienza e mi sono detto: io sono venuto a difendere questa terra, a lottare per questa terra che mi è stato insegnato che è nostra di diritto. Quando le prime bombe cadono su Porto Argentino, un'altra guerra si comincia a combattere nell'Atlantico del Sud. Una guerra fatta di prime pagine a colori e di titoli cubitali, ma soprattutto di false notizie. E mentre tutto il mondo sa come vanno veramente le cose, gli argentini sono di nuovo vittime dei loro carnefici, come spiega Orazio Verbischi. Vamos, argentinos, vamos a vencer. El futuro sigue su camino. Argentinos, argentinos a vencer. Argentinos a vencer. Nel mio libro ho studiato tutti i comunicati ufficiali, sia argentini che inglesi, e la differenza è impressionante. Gli inglesi omettono molte informazioni, occultano molte notizie, mentono, ma tutto è finalizzato a ingannare il nemico. Gli argentini omettono, inventano molte cose, mentono, ma tutto è diretto a ingannare il popolo argentino, a fargli credere che è in corso una guerra trionfale, quando in realtà non era così. Quando non era così. Vi abbiamo proposto la prima parte della guerra. Accadrà tutto il necessario affinché la guerra finisca come deve finire. Trionfante. Thank you. después las tapas de las publicaciones. Poi le copertine dei settimanali. Continuiamo a vincere, continuiamo a vincere. Un grande titolo esultante per una situazione che era drammatica e dandogli un'inutile impronta sportiva. Il 2 maggio un sottomarino nucleare inglese affonda l'incrociatore General Belgrano. Dei 1042 marinai ne affogano in poche ore oltre 350. L'incrociatore stava rientrando in porto e navigava fuori dalla zona di guerra decisa unilateralmente dagli inglesi. Ce ne parla Oscar Raul Cardoso. La soluzione non si negozia più. L'affondamento dell'incrociatore Belgrano, insieme all'affondamento dello Sheffield, la nave inglese, sono i due momenti della guerra che rendono impossibile qualsiasi spazio minimo per una soluzione negoziata. Se c'erano poche possibilità prima di questi due avvenimenti, dopo di essi non c'è stato niente. La notizia viene inizialmente data in sordina, tanti morti erano difficili da giustificare. Poi la propaganda della dittatura trasforma la tragedia in un'ingiustificata aggressione, praticamente una dichiarazione di guerra che fino a quel momento nessuna delle due parti aveva ufficializzato. A parlarcene il giornalista Orazio Verbischi. In la linea del subterraneo? Nelle stazioni della metropolitana, dove c'erano degli altoparlanti che trasmettevano la pubblicità, durante la guerra si interrompeva la pubblicità per passare i comunicati e le musiche militari. Le marce militari. La musica militare, la melodia. Transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, Repubblica Argentina. Io tengo il ricordo di una. Mi ricordo la mattina in cui si annunciò l'affondamento dell'incrociatore Belgrano. Nessuno parlava. La gente guardava per terra. Lì si è infranto quel trionfalismo che erano riusciti a creare. Ognuno era rinchiuso in se stesso, nessuno comunicava le proprie emozioni. Tutto questo trasmetteva l'angoscia e il dolore di una realtà che si imponeva oltre tutte le bugie che erano state dette per nasconderla. A pesar de todas las mentiras que se habían hecho para ocultarla. Mix 24, la storia. Rieccoci su Mix 24. Quella che stiamo raccontando oggi è una storia di guerra fredda, quella della contesa delle isole Malvinas tra Argentina e Inghilterra. Comincia così la più importante battaglia aeronavale della guerra fredda. Gli aerei argentini decollano dal continente per attaccare le navi inglesi al largo delle isole, 600 chilometri andata e ritorno. E l'eroismo dei piloti comincia a riempire le prime pagine dei giornali di tutto il mondo. La marina britannica alla fine della guerra perderà 6 navi e 36 aerei argentini verranno abbattuti. Ma lo sforzo dei piloti non sarà sufficiente per fermare gli inglesi, che il 21 di maggio sbarcano nella baia di San Carlos, 100 chilometri da Porto Argentino. Ad attenderli sono 42 soldati argentini. Ce ne parla il comandante delle forze argentine Mario Benjamin Menendez. Non avevamo nelle Malvinas possibilità di muoverci con gli elicotteri. Gli elicotteri potevano essere facilmente distrutti dall'aviazione inglese. Non avevamo veicoli cingolati e non c'erano strade. Così ci si doveva spostare a piedi. Era molto penoso. I soldati erano l'unico mezzo per trasportare ogni cosa. Comincia così la battaglia terrestre per le isole. I soldati inglesi, tutti professionisti, sbarcano a migliaia. Gli argentini cominciano a combattere contro un nemico che pensavano non sarebbe mai arrivato. Ma chi erano questi soldati? E soprattutto da dove venivano? La regione di Corrientes è quella che ha mandato più soldati alle Malvinas. È partita molta più gente da Corrientes che da Buenos Aires. La maggior parte di loro vive in campagna. È gente che non è mai stata in città, che non si è mai fatta visitare da un medico. È gente che non ha mai ricevuto nessuna attenzione dallo Stato. Tutti si domandano perché sono stati mandati alle Malvinas i ragazzi di Corrientes. Qui ad aprile fanno più di 30 gradi. E alle Malvinas stavamo sotto zero. Alcuni dicono che mandarono i correntini perché sono coraggiosi per tradizione. Io credo che ci sia stata una strategia precisa da parte delle forze armate per utilizzarci semplicemente come carne da cannone. Avete sentito Orlando Pasqua, presidente Associazione Reduci Corrientes. A Corrientes, come nel resto dell'Argentina, convivono decine di associazioni di ex combattenti, spesso in netto contrasto l'una con l'altra. Tutti hanno lasciato qualcosa alle Malvinas, un amico o le illusioni di un adolescente, e dopo 25 anni hanno ancora bisogno di ricordare, di parlare, perché in fondo non riescono a dimenticare. Noi parliamo della guerra soltanto quando ci incontriamo tra ex combattenti. Solo allora parliamo delle Malvinas. Non ho mai raccontato nulla a mio figlio. Non mi sono mai seduto a parlare con lui della guerra. E non gli racconterò mai niente. Ma la vittoria non ci sarà. Ancora 3 settimane di guerra e tutto sarà finito. Gli inglesi attraversano l'isola senza incontrare resistenza e i coscritti argentini, al freddo da ormai 2 mesi, stanchi e affamati, aspettano l'assalto finale nelle loro trincee intorno a Porto Argentino. Una fine scontata, una guerra che non si poteva più vincere. L'11 giugno è il giorno in cui gli inglesi sono arrivati a Monte London. Fino a una settimana prima erano vicini più o meno ad 1 chilometro. Noi avevamo un radar e quelli che lo usavano ci avevano detto che erano pecore. E invece erano gli inglesi. Così la notte in cui ci hanno attaccato siamo andati a dormire senza sapere che gli inglesi erano lì. La notte dell'11 giugno comincia l'attacco finale e sarà una carneficina. 200 morti e 1000 feriti in soli 2 giorni. Sono numeri impressionanti che testimoniano quanto cruenti siano stati i combattimenti. Solo cannoni e baionette, niente aerei, niente missili, niente tecnologia. I feroci Gurkha nepalesi, i paracadutisti, i Marines contro gli studenti di Buenos Aires e i contadini di Corrientes. A parlarcene Sergio Delgado. Sono arrivati silenziosamente nella notte. Io li ho sentiti, ma loro non mi hanno visto. E io li vedevo così, come sto con te. Tutto intorno è cominciato il combattimento corpo a corpo, con i pugni e gli spintoni. Una cosa stranissima, molto strana. Nel caos, i 2 inglesi che sono passati sopra la mia posizione sono rimasti a parlare, proprio sopra la mia testa. E io ero sotto con il mio compagno e gli inglesi stavano sopra, parlando. E los tipos estaban arriba hablando. Mentre alle Malvinas si combatte l'ultima battaglia, il 12 giugno Papa Wojtyla arriva in Argentina dopo una visita a Londra. Il Papa porta con sé una proposta di accordo, ma i generali non lo ascoltano. Come dei pugili suonati, credono alle loro stesse bugie e sono convinti di poter ancora vincere. Este amor en un momento histórico tan doloroso para vosotros como es el actual. Il 14 giugno 1982, a 72 ore dalla visita del Papa e a 3 settimane dallo sbarco inglese, le forze argentine si arrendono. Gli inglesi sono di nuovo padroni di questa piccola colonia dimenticata. La decisione di arrendersi è stata presa la mattina del 14 giugno, quando le possibilità di difesa si erano esaurite. La resa è una responsabilità del comandante, che ero io. E l'ho presa dopo aver parlato al telefono con il generale Galtieri a Buenos Aires, che chiedeva di continuare a resistere. Ma io ho capito che questo sarebbe costato un bagno di sangue. Ci sarebbero stati troppi morti, soldati che avevano dato tutto per resistere di fronte al nemico. L'occupazione delle Malvinas è la conclusione di uno sviluppo ideologico con il quale le forze armate argentine si sono ingannate da sole, credendo di far parte della terza guerra mondiale contro il comunismo. La guerra sporca, che ha insanguinato l'Argentina, si è ispirato a questa dottrina. I militari argentini, con il supporto nordamericano, credevano di stare combattendo la battaglia decisiva nel fronte sud della terza guerra mondiale. L'importanza che attribuivano alla loro partecipazione in quella guerra e il loro precedente intervento in Centro America, in accordo con la CIA e alle spalle del presidente americano Carter, tutto questo gli ha fatto credere che avevano via libera per qualsiasi obiettivo si proponessero nell'Atlantico del Sud, e per questo decisero di occupare le Malvinas. Per qualche obiettivo che ellos quisieran proponersi nell'Atlantico Sud. E per questo decidieron. Ovviamente, la battaglia delle Malvinas è stata l'ultima di questa terza guerra mondiale che credevano di combattere, perché per la prima volta dovettero affrontare un vero nemico. Avete sentito lo storico Orazio Verbischi. 7 anni di repressione, 30.000 desaparecidos, i diritti più elementari negati con la violenza. Tutto si somma in questa rabbia popolare. Ma perdere una guerra è soprattutto un simbolo, come le Malvinas, è troppo. Una beffa. Gli argentini si sentono truffati e anche quella parte della popolazione che appoggiava l'operato dei militari si ritrova in piazza a gridare. L'Argentina vuole la testa della giunta e pochi giorni dopo la resa Galtieri è costretto a dimettersi. Dopo la disfatta tutto cambia molto velocemente. Ancora un anno di giunta militare, poi le prime elezioni democratiche da più di 10 anni e la vittoria di Raúl Alfonsín. E le Malvinas? Oggi le isole sono la meta di migliaia di turisti alla ricerca di una natura incontaminata. I 2.000 abitanti hanno il reddito pro capite più alto del continente americano dopo gli Stati Uniti. Finita la guerra, l'Inghilterra si è ricordata di loro. Si sono costruite strade e infrastrutture e una gigantesca base accoglie più di 2.500 militari con le loro famiglie. Professore Augusto Sinagra, esperto di diritto internazionale, quali sono le ragioni giuridiche dello scoppio della guerra nelle Falkland? I documenti dell'ONU indicano che il nome è Malvinas Falkland, non solamente Falkland. Le ragioni sono antiche, risalgono al 2 gennaio del 1833, quando la corvetta Clio britannica occupò con la violenza, con le armi, l'arcipelago delle Malvinas, cacciandone gli argentini che legittimamente esercitavano la potestà di governo. Invece dal punto di vista politico, secondo lei, è nata lì la fortuna della Thatcher? Sicuramente c'è, che se l'allora giunta militare argentina aveva necessità di provocare un momento di commozione nazionale per sostituire in Plaza de Mayo le madri dei desaparecidos con la folla esultante per l'iniziativa militare argentina. Dall'altra parte la signora Margherita Thatcher si confrontava con uno sciopero già da tempo prolungato dei minatori in Inghilterra che stavano mettendo in ginocchio l'economia britannica. Fu colta questa occasione per provocare un corrispondente momento di commozione nazionale in Gran Bretagna, allestendo una flotta spaventosamente grande che mai si era vista nella storia dell'umanità. Questo per andare a occupare 4 scogli e per confrontarsi con un paese ovviamente militarmente debole come l'Argentina. Che ruolo ha avuto, se lo ha avuto, la CIA in questa guerra? Guardi, la CIA da molto tempo ha sempre un ruolo in tutte le vicende e naturalmente sono ruoli svolti nel pieno della illegalità, perché opera attraverso, mette in opera azioni illegali all'interno di stati indipendenti e sovrani in violazione delle leggi degli stati. So per certo ed è documentato che il governo di Washington appoggiò pesantemente, fuori da un intervento diretto, la Gran Bretagna nella sua azione di riconquista di 4 scogli. Le isole Malvinas Falkland sono ancora un tasto dolente nella geopolitica internazionale? Assolutamente, perché costituisce un momento appunto di unità nazionale, sono rappresentative di un sentimento nazionale al quale gli argentini non rinunceranno mai, sono per noi potrebbero essere Trento e Trieste. Ma torneranno mai, secondo lei, all'Argentina? Assolutamente sì, è inevitabile. Ah sì, è lei pensa di sì. Per ragioni geografiche, perché non si può pensare che il governo britannico voglia affrontare ancora una spesa pesantissima per mantenere una posizione di puntiglio. Grazie, professore. Non c'è di che.